una delle edizioni migliori dei campionati d'Europa, forse la migliore in assoluto. Certo il vincitore più degno, la Spagna, che ha vinto 5 partite su 6, pareggiando soltanto quella con l'Italia, particolare che rivaluta, non poi così di poco, l'Italia del defenestrato Donadoni. Una finale splendida, che la Germania ha provato ad aggredire fin dai primi minuti per sorprendere un avversario obiettivamente più forte, ma che gli spagnoli alla fine hanno vinto di lontano, ben al di là del gol vincente di Torres. Un palo, un salvataggio sulla linea, una miriade di occasioni da gol, una superiorità di gioco, ma anche una sofferenza interminabile dovuta alla solita irriducibilità della Germania. Difficile scegliere il migliore dei neocampioni d'Europa, dal grande portiere Casillas, capitano e protagonista a tutto tondo, a Xavi, regista illuminato, al Nino Torres che ha firmato la partita. Eppure se in questa squadra di artisti non ci fosse stato Senna, l'operaio specializzato, che all'ultimo istante qualsiasi avversario si fosse trovato di fronte sulla propria strada riusciva a fermarlo, questa Spagna non sarebbe ora, con pieno merito, campione d'Europa.